Cari amici, senz'altro ricorderete che ci siamo riproposti un po' di mesi fa di fare un anno alla scuola di Gesù, di seguire la sua esistenza, le sue parole, i suoi miracoli, le parabole, per imparare a conoscerlo. E domenica dopo domenica stiamo facendo questi passi. Oggi ci aspetta un passaggio molto importante: seguire Gesù in questo suo percorso di 40 giorni di digiuno e di preghiera nel deserto. Per noi sarà la Quaresima. Perché Gesù fa questo periodo, diciamo, di ritiro? Ma in tutte le cose ci vuole un periodo di preparazione, persino in alcuni appuntamenti sportivi e calcistici ci vuole il ritiro. Gesù, siccome deve passare dalla vita normale in casa sua a Nazareth alla vita di predicare il Vangelo, si dà questo tempo di preparazione, di preghiera e di penitenza per vivere bene questo periodo. Noi, se vogliamo seguire Gesù che va verso la Pasqua, dobbiamo fare questo stesso periodo di penitenza e di preghiera. È un periodo, quello della Quaresima, per la Chiesa bellissimo. Bellissimo, la Chiesa nei secoli ha espresso tutto questo in alcune preghiere e poi nel nostro rito ambrosiano, soprattutto nei prefazi, di una straordinaria ricchezza, che meriterebbero di essere approfonditi. Noi faremo quello che possiamo e io mi limiterò a una sola parola che vi consegno all'inizio di questo periodo quaresimale: la parola penitenza e digiuno. Cercherò di spiegarmi. Sempre, anche nei decenni passati, il popolo cristiano ha sentito la Quaresima con particolare impegno. Per questo io invito anche voi a entrare con serietà, a vivere con impegno questo periodo. Io ricordo, e sono i fatti che lasciano il segno, mio papà non era un bevitore, però gli piaceva il vino. Era un fumatore da un pacchetto di sigarette al giorno. In Quaresima smetteva di bere il vino e di fumare. Come facesse non lo so. Con Pasqua ricominciava, perché dice: la mia penitenza l'ho fatta. Ma come fai, papà, a non fumare 20 sigarette al giorno? E riuscivano, ma guardate, non era l'unico, Tra il popolo era molta impegnativa la Quaresima, con altre penitenze e così. Io vi suggerisco qualcosa di adatto per il nostro tempo. Anzitutto fare seriamente i venerdì di Quaresima, che sono di magro, è il primo e l'ultimo venerdì di Quaresima, anche di digiuno. Perché la Chiesa ci invita a fare di magro e di digiuno? A fare le cose seriamente, Perché fare di magro non vuol dire non mangiar carne e farsi una bella trota al cartoccio. Di magro vuol dire stai indietro dai cibi gustosi, una bella patata lessa con una carota, un po' di sedano, qualcosina per mettere giù, e poi magari saltare la cena. Questo vale anche per i bambini, amici. Non dobbiamo aver paura di proporre ai nostri ragazzi di impegnarsi. L'impegno non ha mai fatto male a nessuno, anzi è un allenamento. Certo, io ho sempre invitato i bambini e li invito ancora oggi, anche se qui non ne vedo, però ho dei genitori, no? Dei nonni. Non mangiare la merendina al venerdì, mangia un panino a secco, che le tue calorie ce le hai ugualmente, anche in maniera più sana, e stai indietro dalla golosità, per esempio. Era abitudine una volta saltare i dolci tutta la Quaresima, una volta ero capace anch'io di farlo, diventando vecchio non sono più capace. Ma qualcosa cerco di fare ancora, almeno al venerdì e al mercoledì. Se uno fa digiuno ed è magro al venerdì, trova tempo di fare altro. Anche perché insieme a questo io suggerisco al venerdì sera di fare il digiuno televisivo. Ognuno è libero di fare quello che vuole, anch'io sono libero di proporlo e di farlo io e di proporlo ai miei cristiani. E uno di colpo ha una sera libera. Per far che cosa? Per pregare. E se tu lo chiedi anche ai tuoi figli, tu, educatore, gli puoi raccontare la vita dei santi. Fai tu da narratore. Ma dove vado a prenderli? Guarda, io ho inciso dei vocali sulla vita dei santi. Li ho condivisi con tanti, li posso condividere con WhatsApp. Attualmente sto incidendo Fatima. E lì è stimolante vedere la Madonna che chiede a dei bambini, Giacinta aveva 7 anni, Francesco 9 e Lucia 10, gli dice fate penitenza per riparare i peccati contro mio figlio e per salvare le anime che vanno all'inferno. No, ma stai proprio facendo un discorso da Quaresima. No, faccio un discorso che vale sempre. Fatima valeva 100 anni fa, vale ancora oggi, e siccome dicono che Medjugorje riprende un po' il discorso di Fatima, vale ancora oggi per migliaia di persone che lì vanno e cominciano seriamente a fare penitenze e digiuno. Non deve essere mai fine a se stesso, se no fai il fachiro. Ma tu, se salti una cena, risparmi qualcosettina. Una volta c'era l'abitudine del salvadanaio, di mettere dentro questi soldini che andavano alle persone che patiscono la fame nel mondo. Ci sono ancora, e i missionari ce lo testimoniano. Digiuno dal tempo, televisione, digiuno dai soldi, se tu salti qualcosa, se tu ti trattieni dallo spendere per i poveri, digiuno anche dal tempo per ristabilire i rapporti. Se siamo capaci di saltare una serata, se siamo capaci di occupare magari... Io ho conosciuto gente che in Quaresima partiva mezz'ora prima al mattino con l'automobile per fare una deviazione dalla provinciale, entrare in un paese a 5 chilometri dove c'era la messa, e andava a messa tutti i giorni andando al lavoro. Certo, partiva prima, si alzava prima. Amici, non si ottiene niente se non dando la cura, l'attenzione. Andiamo verso la primavera, il tuo balcone o il tuo giardino, se tu li coltivi ti danno soddisfazione, se tu li trascuri generano disordine, generano apatia e generano anche tristezza. Che brutto vedere giardini trascurati o vasi di fiori malandati. Bene, allora amici, cerchiamo di coltivare bene il nostro giardino di questi 40 giorni. Ci vuole fatica, ma il risultato arriva, amici. E poi non spaventatevi di quello che dico, stanotte cercate di dormire, ma... E se fosse l'ultima Quaresima della nostra vita? No, chi è giovane no, ma chi come me ha una certa età? E poi anche di vecchi non ne scampa nessuno, ma di giovani qualcuno anche muore. Quest'anno, l'anno del Covid, ha visto anche il nostro comune raddoppiare i funerali. Comunque sia, che sia anche il penultimo, il terzultimo, il millesimo ultimo della nostra vita, però che questo tempo quaresimale possa lasciare il segno sotto il nome della penitenza e del digiuno per ricavare tempo, soldi da dedicare a Dio e da dedicare ai fratelli.